Friuli nel mondo. Canti della nostalgia. 35esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villa Vicentina, nella verde pianura friulana. Acuto l'odore della terra, coltivata a frumenti e a vigneti, a tratti il respiro del mare. È sera, una dolce sera d'estate. Ci accoglie, ci sommerge sotto l'intrico dei rami il parco della villa, fatta costruire agli inizi dell'Ottocento da Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte. Magnolie, roveri, olmi, cedri, cipressi popolati di rosignoli. Un saluto silvestre che ritrasmettiamo agli emigrati in ascolto. Sulla facciata dell'edificio una lapide. Ricorda lo scienziato Luigi Pasteur che lo abitò tra il 1869 e il 70 per condurre gli studi sul baco da seta. Inserti nella sua opera immortale, benedetta dall'umanità. Come spiega l'iscrizione dovuta alla Società Adriatica di Scienze Naturali di Trieste. Nella serra, attivo alla dimora dei Napoleoni in esilio, i cantori di Villa Vicentina s'accingono ad inviare agli emigrati un altro saluto. A due di essi specialmente. A Rodolfo Kubik e ad Albino Torre, autori di nostalgici canti composti in Argentina, dove risiedono da molti anni. Il primo, nato a Ronchi dei Legionari, da madre friulana e da padre istriano, coglie l'anima del Friuli con una sensibilità di eccezione, con una tecnica affinata dallo studio e dalla permanenza a Vienna, dalla direzione del coro universitario di La Plata. Un complesso familiare alla radio argentina e nei suoi applauditissimi concerti a tutta la Repubblica del Plata. Sua l'agnò, la notte, un motivo vivace ricamato su versi scherzosi. Al sopraggiungere della notte che acqueta tutto il creato, la luna birichina sbircia tra le nubi lacerate, ma vede e non parla. Vede le ragazze intente a spiare dalle imposte socchiuse, vede i giovanotti col naso all'insù. Il testo poetico non si scosta dalla tradizione, i soliti ottonari a rima alternata, musicalmente elaborato però, con un'armonizzazione che denuncia nel Kubik la conoscenza dei canti polifonici classici d'autore e i canti popolari, di cui è interprete sicuro e colorito. Il suo coro universitario esegue infatti e nelle lingue originali canti spagnoli, francesi, provenzali, italiani, latini, friulani. Jacopo Tomadini ha in lui un rivelatore della musica sacra, fiorita nel secolo scorso sulle sponde del Natisone. Autunno, dello stesso autore. Ancora un motivo di villotta, ma sul piano polifonico, che lo allontana dalla spontanea e semplice linea popolare. Malinconia del tempo, quando girano gli uccelletti allo spiedo e la polenta ingrassa nella leccarda, golose. Accanto al fuoco, sapientemente regolato, una fantate con una rosa tra i capelli, l'ultima forse della stagione. Frattanto il vino fermenta nel pigiatoio, la natura trascolora. Giorni fa, ammonisce il poeta, passando davanti allo specchio mi sono accorto d'essere invecchiato. Autunno, malinconia dell'anno. Amico e collaboratore del Kubik, Albino Torre da Romance di Sonzo, un altro nostalgico quando avverte il cuore dolente. Soffle la buere, soffia la bora, cade la neve, che splendore, che biancore. E vegno fisse, vegno cidine, ed ot in blanche, dot ecoviars. Il motivo, assecondando lo sfarfallare dei candidi fiocchi, crea un'atmosfera da brivido invernale. Oh. canto Gleseute me, chiesetta mia, il compositore affida il suo più lungo sospiro nostalgico. Alla ciare Gleseute dal cur sono legati i ricordi di un timp seren e pur. A vivere e a sognare sotto il cielo di allora, nel verde prato che la circonda. Se non che quei giorni non torneranno più, quanto lontana l'infanzia che lo vedeva leggero come gli uccelli felici. Gleseute me, ciare Gleseute dal cur. Cantore della nostalgia, definito perciò musico malinconico, anche il goriziano Augusto Cesare Seghizzi, anche lui di madre friulana e di padre istriano. Insegnava musica a Gorizia, organista di quel duomo, sempre assorto in un suo mondo spirituale, compositore di pagine che con sapienti armonizzazioni rendono i motivi popolari, pronto a trarre ispirazione dalla natura che lo circondava, come in questo canto del grillo. Rende non soltanto il monotono verso del grillo, ma il paesaggio isontino, le alture sacre alla morte, la vena biancazzurra del fiume che lambe il Carso, che specchia il re di Puglia e va al mare. Proprio in quei luoghi, il musico malinconico traeva per mano la figlioletta, trasfondendole la propria passione. Ci si spiega così come Cecilia Seghizzi, riprendendo il filo dell'ispirazione paterna, abbia rivestito di musica nostalgica «Vorrei stornà, Mariute». «Vorrei tornare, Maria». Sfogo di un trovatore che invoca il suo amore lontano. Thank you. Nostalgia di focolare nella solitudine delle Pampas. Nostalgia d'una chiesetta, richiamo alla fede dei padri, nella luce serena dell'infanzia. Al di là e al di qua dell'Atlantico, la stessa nostalgia, ugualmente intensamente viva nei cuori e nei canti dei figli del Friuli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, canti della nostalgia, 35esima trasmissione dedicata agli emigrati. Musiche di Rodolfo Kubik, Albino Torre, Augusto Cesare Seghizzi, Cecilia Seghizzi. Ha partecipato alla trasmissione il coro di Villa Vicentina diretto da Secondo Del Bianco.